Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E inizia una lunga fuga. Eccole, a tre quarti campo. Supera la metà campo. Gli si fa incontro in mediano. Saltato. Eccolo davanti al terzino. Superato anche lui. Limite dell'area. Salta un avversario. Tiro. E il pareggio. Al lavoro e in famiglia, con i nostri amici e con i nostri figli, ci sono situazioni in cui l'unione fa la forza. Anche noi oggi decidiamo di fare squadra e qui in studio con me Tata Lucia, grande sostenitrice del gioco di squadra in famiglia. Ciao Tata! Ciao tutti vincenti! Io parto così, siamo tutti vincenti se vogliamo. Perché tu dici spesso proprio che la famiglia è una squadra, tutti vincono, tutti perdono. Esatto, esatto. E noi ci misureremo anche con i nostri ascoltatori, se fanno parte di una famiglia, se vogliono raccontarci Certo. Le loro difficoltà nel fare squadra. 800 24 00 24, naturalmente come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Fate parte di una squadra? In che ruolo giocate? Raccontateci un po' la vostra giornata tipo e diteci anche i risultati che ottenete. In gergo credo si dica: siete soddisfatti del vostro modulo o avete bisogno di rivedere qualcosa? Allora, veniamo subito alla nostra formazione. Ci facciamo aiutare dal dottor Luigi Ballerini, medico scrittore e psicoanalista freudiano, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno. Anche perché ho pensato di fargli questo grande regalo, Tata. Il dottor Ballerini era venuto venerdì, avevamo parlato dell'importanza della lettura e quando ha saputo che tu saresti venuta qua negli studi di Radio 24 ha detto: sarebbe uno dei miei sogni incontrare. Ma non è che dobbiamo dire sempre tutto. Sì, io dico sempre tutto. E vabbè. Allora ho detto: va bene, faccio la fatina e ti faccio incontrare Tata Lucia. Va bene, tra l'altro. Va bene, io ho un grande piacere di incontrarlo perché ero curiosa anche di vedere il suo libro e adesso cosa faccio, che è molto interessante. È un libro interessante, ma lui Certo. Poi fa parte di una squadra, quattro figli, quindi cavoli. Una grande squadra, certo. Come psicoanalista immagino anche aiuti, no? le persone a inserirsi in una squadra. Ci sono tante squadre nella nostra vita, no? Quelle degli amici, quelle del lavoro, i colleghi, la scuola, la famiglia. Ce ne sono tantissime e ho fatto bene a voler venire qua con Tata Lucia, perché questa partenza a tutti i vincitori è davvero rivoluzionaria, perché di solito cosa pensiamo? Se vinci tu vuol dire che perdo io. E allora ci mettiamo subito in un conflitto, la famosa torta che va divisa. Tata Lucia ci ha detto che il saper perdere è una vincita. No, saper perdere è una vincita, e poi ci sono delle situazioni in cui non necessariamente se tu vinci sarà un di meno per me. Esatto. Quindi scoprire cosa vuol dire vincere insieme è davvero importante e abbiamo visto vincere insieme in famiglia, ma di fatto poi accade in tutti i rapporti, pensiamo sia rapporti di coppia, ai rapporti con gli amici. Diciamo che insomma oggi sfidiamo un po' i nostri ascoltatori a scegliere un motto, no? Allora, sono un tipo da l'unione fa la forza o sono un tipo da chi fa da sé fa per tre? 800 24 00 24, potete come sempre scriverci al 349 238 6666. Diamo i ruoli, dottor Ballerini? In famiglia ci sono gli allenatori, che sono i genitori, e ci sono poi i giocatori, in cui io metterei ancora i genitori, ma con accanto i figli. Ma io ci sto a questa proposta. Nella mia esperienza in cui incontro tanti genitori, mi accorgo che a volte c'è quasi un'inversione di ruoli, a volte i figli allenano un po' i genitori, nel senso che a volte i genitori stessi hanno tanto da imparare dai bambini. Allora, diciamo che giocano tutti, no? Certo, dicevamo poi prima sicuramente c'è una cosa importante, il genitore deve scoprire il figlio e quindi è il figlio che insegna chi è al genitore. Infatti, perché il genitore non lo sa. Si dice che può essere una bella palestra. Esatto, no? Avere un figlio per un genitore. Esatto. Ci sono delle dinamiche in famiglia che si ripresentano poi in altri contesti, ad esempio nel lavoro, a scuola. Noi oggi proprio vogliamo esplorare il lavoro di squadra, non solamente in famiglia, ma un po' nella nostra vita di tutti i giorni. E quindi che cosa? Anche perché imparare a fare squadra in famiglia è, come dicevate voi, una palestra che ci permette poi di avere buone relazioni, non solo sul lavoro, ma anche magari nelle relazioni amicali. Certo, certo. E poi è una costruzione praticamente, come un campionato, no? Che si rinnova continuamente con tante piccole partite che ci sono o in un giorno o in un mese o in anni e che portano alla fine ad essere una squadra vincente. E quindi squadra vincente, accettiamo un po' la sfida del dottor Ballerini, siete del partito l'unione fa la forza oppure chi fa da sé fa per tre? E quando la scelta di uno di questi due moduli vi ha procurato vantaggi, benessere, vi ha fatto crescere, quando invece vi è stata un pochino stretta? Nel complesso io me la cavo bene, molto bene. Molto bene, davvero. Nel salotto buono non ci si può azzuffare! Questa sono io, che me la cavo. Dalla a me! Dalla a me, te la faccio pagare! Anche loro se la cavano. Scendete dal divano, Vincent, giù, giù, giù! Ho detto, scendete giù dal divano! Ce la caviamo tutti. Stiamo bene. Ci sei tu sopra il divano! Stiamo bene. Smettetela di urlare! Non stiamo urlando, tu urli! Noi dovremmo essere tutti impegnati a pulire per bene la fattoria per l'arrivo dei cugini domani. E invece l'unica cosa che sapete fare è azzuffarvi, azzuffarvi, azzuffarvi, mentre io vorrei vedervi solo condividere, condividere. Tata, ci sono dei momenti nel corso della giornata in cui fare squadra è faticosissimo, ad esempio la mattina quando tutti devono prepararsi per uscire a affrontare gli impegni della giornata, o al rientro da scuola bisogna accogliere i bambini, certo, hanno i compiti da fare, il nuoto, o quando, certo, tornano i genitori dall'ufficio stanchi e devono dedicare attenzione, energie, certo, qualità ai ci loro vuole figli. Però un po' di programmazione, eccola qui, cioè la modifichiamo gli antecedenti che sono quelli che di solito poi provocano invece la rivoluzione, cioè mettiamoci proprio nell'ottica, l'allenamento deve essere così, programmare una certa azione, dopodiché l'azione ripetendola diverse volte diventa una buona abitudine. E si inizia proprio dal mattino, certo, il momento in cui tutti devono uscire, bisogna vestire, certo, lavarsi, vestirsi, fare colazione. Bisogna magari alzarsi un po' prima, cosa che nessuno vuole fare, ma anche quello è un allenamento. È il momento un po' dei capricci per i bambini, il mattino. Beh, non è detto, ci sono dei bambini che se messi a letto presto alla sera si svegliano perfettamente attivi e allegri. Quindi io vorrei chiedere proprio ai nostri ascoltatori qual è il momento della giornata in cui fare squadra per loro diventa molto difficile. Abbiamo Luciano che ci chiama da Milano. Buongiorno, fa anche rima. Benvenuto. Sì, buongiorno. Grazie. Grazie, un saluto anche ai vostri ospiti. Ascolti, io forse sono al di fuori, diciamo, di questo argomento. Proprio ieri sera, allora tengo a precisare che sono un papà che comunque passa non tanto tempo a casa per il discorso di lavoro eccetera, proprio ieri sera ho affrontato un discorso, non io personalmente ma mio figlio mi è venuto incontro, ultimamente avevamo notato diciamo che è un po' più aggressivo del solito e ieri sera comunque si è avvicinato e mi ha spiegato e io sinceramente sono stato preso un po' alla sprovvista, ho cercato di essere un po' esauriente al suo discorso che mi ha fatto e questo in sintesi sarebbe perché mi ha chiesto e io a scuola i miei amici non gioco con i miei amici perché hanno detto, mi dicono sempre che siamo in tanti, non mi fanno giocare e io in questo caso sono rimasto un po', diciamo, preso a sorpresa e ho cercato di dare queste risposte, vabbè, ho detto perché magari il gioco si è in tanti perché giocano con le trottoline, il blade. Sì, ma lei il suo figlio proprio le ha raccontato questa difficoltà e il genitore giustamente si rattrista perché quando un bambino ti dice mi escludono in qualche modo ti senti portato a trovare delle giustificazioni ad aiutarlo, ma spesso non si trovano le parole, dottor Ballerini. Sì, spesso non si trovano le parole e forse bisogna cercare di superare immediatamente quel sentimento che il genitore ha di gli stanno facendo un sopruso, che stanno facendo qualcosa di male a mio figlio. Conviene forse mettersi un po' sereni e come io invito sempre, cercare di capire cosa succede e lavorare anche con questo bambino nel vedere, nel cercare di capire come si pone con gli altri, perché può darsi che uno viene escluso perché magari per timidezza eccessiva, oppure perché per pensa di non farcela, sì, no? Oppure sì, magari per un'eccessiva carica fa qualcosa per cui non è ritenuto un buon compagno di giochi. Per cui sarà bene magari anche come capire alternative, e aiutarlo. Sì, magari offrirgli invece di stare tanto a, diciamo in un certo senso, colpevolizzarlo con un comportamento, dirgli guarda, magari sabato inviti a casa due amici, andiamo insieme ai giardini, giocate insieme, cioè dargli questa possibilità di inserirsi magari poco per volta in un gruppo che poi si ritrova. Spartaco, dalla provincia di Pistoia, buongiorno a lei, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno Spartaco, dov'è finito? È sparito. Spartaco? È caduto. Allora, la scuola è proprio un bel banco di prova per imparare a fare squadra. I bambini devono seguire tra l'altro le indicazioni degli insegnanti, rispettare le regole, condividere, certo, con i compagni fatiche e successi. Si sperimenta anche il piacere, la fatica di appartenere a un gruppo, come ci, certo, ha raccontato appunto l'ascoltatore, e quindi ci sono tante relazioni da tenere sotto controllo. Esatto, sì, e poi va, secondo me la chiave di tutto questo è una forma che bisogna subito che il bambino impari, di grande rispetto di sé, nel senso che uno deve poter esprimere se stesso, e rispetto degli altri. Questo è una, crea una convivenza serena, quindi bisogna che allenare anche a scuola i bambini a questa comunità in cui ci si rispetta a vicenda, però siamo tutti giocatori e in un certo senso tutti siamo vincenti. Dottor Ballerini, quando noi facciamo fatica ad accettare una situazione o ci sentiamo inadeguati, un po' pressati, non all'altezza delle aspettative, viene fuori un po' il bambino che c'è in noi. Ci sono degli atteggiamenti che ritornano e che dall'esterno possono essere considerati un po' infantili. Ma diciamo che è un periodo in cui assistiamo molto a quello che è una infantilizzazione dell'adulto. Non parliamo di infantile, ma di infantilismo, per cui dobbiamo un po' capire forse esattamente di cosa si tratta. Io credo che tutti conosciamo, abbiamo almeno sentito una volta il detto evangelico: se non tornerete come bambini. Sì. Però dice come bambini, non se tornerete bambini. Questo vuol dire che tornare come bambini non vuol dire che mi metto la cravatta di Paperino. Esatto. Tornare bambino come un bambino vuol dire tornare a pensare come lui, tornare a pensare che la realtà è positiva, tornare ad essere curioso, tornare ad avere voglia. Allora questo è un ritorno, ma una nuova conquista dell'adulto che vedo molto positiva. Il rifugiarsi in un atteggiamento infantile che poi danno fastidio ai bambini e ai ragazzi, perché, certo, loro stessi ce lo notano, no? Assolutamente. È magari una forma di difesa però assolutamente inefficace, che anzi disturba un pochettino e a volte ci rende anche un po' ridicoli, diciamolo. Ci sono due cose meravigliose nel bambino: la semplicità e il vivere l'attimo. Se noi creiamo tanti attimi felici, il bambino è felice. E anche noi. E anche noi, ovviamente. E quindi tutta la squadra è felice. E a proposito di scuole, di gruppo, c'è però anche l'altro lato della medaglia. Ci sono bambini, soprattutto ragazzi, che si uniscono per fare squadra ai danni di uno. Sono i bulli. Il fenomeno del bullismo sono in crescita e negli ultimi tempi una forma in particolare, il cyberbullismo. Ma i nostri ragazzi non sono soli, perché c'è Zeng, un amico, una pagina Facebook che voglio segnalarvi e che è nata da un'idea di un medico che ha a cuore la salute dei nostri ragazzi. Saluto il professor Luca Bernardo, direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Zeng, potremmo dire basta la parola, perché è un nome che non è stato scelto a caso. No, infatti è un antico viaggiatore che ha fatto grandi viaggi, e quindi questo viaggio noi l'abbiamo immaginato in senso virtuale e globale, quindi il viaggio che compiono quotidianamente gli adolescenti all'interno del mondo che vivono per di più e per lo più, che è quello di internet. È proprio un personaggio epico, simbolo di orientamento, carisma e coraggio. Esatto. Senta, quello che devono avere i nostri ragazzi. Esatto. Su questa pagina Facebook i ragazzi under 20 possono lasciare i loro messaggi e quindi se hanno o sono vittime di episodi di bullismo possono utilizzare proprio Facebook per creare un contatto con i loro coetanei e confrontarsi. In questo senso, come stiamo affermando oggi, l'unione fa la forza, professor Bernardo. Direi assolutamente sì, ma la grande particolarità di questo progetto, che funziona come una pagina di Facebook, quindi si può chattare direttamente e ci sono delle finestre aperte nella serata, nella notte, con degli psicologi clinici afferenti alla nostra divisione, c'è la possibilità di inviare dei messaggi, di lasciare delle mail, ma soprattutto chi parla con questi ragazzi sono ragazzi pari, da noi formati, che quindi sono i primi che sono più vicini e sono in grado di capire ancora meglio, ancora di più di noi, diciamo, tecnici, alcune problematiche. Nel caso ovviamente poi si definiscano o si delineano cose diverse, quindi patologie o altro, sono in grado di spostare questa visione verso il tecnico. Professor Bernardo, noi abbiamo individuato un tipo di bullismo che sta emergendo, è il cyberbullismo. Sì. Il bullismo lo conosciamo purtroppo ormai tutti e quando inizia la scuola inizia anche questo, anche se in realtà non abbandona mai, è un po' come le stagioni, non ci sono più ma 12 mesi l'anno c'è il sole, il mare, la luce, il vento, la nebbia e la neve e quindi il bullismo vive in tutte le stagioni. Diciamo che l'evoluzione del bullismo oggi è proprio il cyberbullismo, cioè l'utilizzo di quelli che sono i mezzi elettronici, quindi da internet, alle mail, ai social network, ai telefonini, quindi inviando messaggi vari e diversi, che il bullo utilizza per colpire la propria vittima. Questo li rende ovviamente, non per noi ovviamente, perché per noi è un sistema negativo, li definisce bulli, queste bulli multimediali, e le vittime altrettanto. Le vittime vengono così messe due volte alla berlina, la prima rispetto all'atto compiuto dal bullo nei loro confronti e due perché non 50 o 100 persone sono in grado di visualizzare quello che è avvenuto, ma milioni di persone. Ricordo che tutto ciò che si mette in internet mai scompare e l'altra cosa fondamentale che bisogna dire, ragazzi, sappiate che il cyberbullismo è un reato. Grazie professor Bernardo, tra l'altro volevo coinvolgere il dottor Ballerini, il cyberbullismo sfrutta proprio questo piacere, questa spinta naturale dei ragazzi a stare in gruppo per utilizzare il gruppo per in qualche modo danneggiarli. Sì, è quando lo stare insieme non è per costruire qualcosa ma per distruggere, e allora non è veramente uno stare insieme perché in realtà poi c'è un leader che schiaccia, è una violenza, c'è un leader che schiaccia e gli altri possono essere solo degli estimatori, essere lì a contemplare quanto è bravo nel far soffrire gli altri, ma non c'è rapporto per nessuno. Professor Bernardo, grazie per essere stato con noi. Ricordo Zeng un amico per gli under 20, una pagina Facebook per confrontarsi e per dare aiuto anche ai ragazzi online, personale specializzato per cercare di arginare il fenomeno del bullismo. Professore, grazie e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata a voi. Nicola, buongiorno da Reggio Emilia, benvenuto. Sì. Buongiorno. Io chiamavo per sapere un po' dai vostri ospiti cosa ne pensavano dell'approccio non condizionale, cioè unconditional parenting in inglese. Ci sono dei libri su questo argomento, ne sto leggendo uno adesso, mi pare molto interessante. C'è un approccio non collegato a punizioni piuttosto che a ricompense, diciamo, nel rapporto con i propri figli. E volevo sapere un po' i suoi ospiti cosa ne pensano su questo, soprattutto anche alla luce del fatto che questo, diciamo, tipo di approccio non prevede i cosiddetti time out, cioè il fatto di punire in qualche modo i propri figli attraverso, diciamo, il farli stare, diciamo, nella propria stanza per alcuni minuti. Tata, diciamo, cosa ne pensi? Allora, il time out non è una punizione. Il time out è un tempo lasciato al bambino o all'adulto per riflettere su come vuole agire successivamente e su quello che ha fatto, che gli ha procurato o gioia o dispiacere, eccetera. Io come penso tutti ormai sappiano, sono contraria alle punizioni, perché le punizioni avvengono quando il fatto è già avvenuto e generalmente il bambino non può riparare a quello che ha combinato, mentre invece sono favorevole al fatto di suggerire al bambino l'obiettivo che vuole raggiungere positivo e dargli dei suggerimenti su come si fa a raggiungere quell'obiettivo. Quindi io sono però dell'idea che il bambino e forse tutti noi insieme come squadra dobbiamo essere un po' aiutati ad essere dei vincenti, nel senso che il bambino in realtà nasce e non sa come si fa a vivere. Tutto gli viene insegnato, tutti questi comportamenti. E quindi passo dopo passo, tra l'altro noi possiamo approfittare della nostra Tata Lucia per oggi, rimane con noi per tutta l'ora, quindi ci sono... L'allenamento è fatto di piccoli passi. Se avete bisogno di un consiglio, un suggerimento nel fare squadra, nell'affrontare magari un piccolo problema del vostro bambino, di vostri figli, chiamateci subito 800 24 00 24. Una squadra di esperti per voi. In una fredda giornata d'inverno, un gruppo di porcospini si rifugia in una grotta e per proteggersi dal freddo si stringono vicini. Ben presto però sentono le spine reciproche e il dolore li costringe ad allontanarsi l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di nuovo ad avvicinarsi, si pungono nuovamente. Ripetono più volte questi tentativi, sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non trovano quella moderata distanza reciproca che rappresenta la migliore posizione, quella giusta distanza che consente loro di scaldarsi e nello stesso tempo di non farsi del male reciprocamente. Schopenhauer. L'apologo dei porcospini in famiglia, nel lavoro, con gli amici. Tutti noi abbiamo e facciamo i conti con qualche aculeo di troppo. Ci punge, ne prendiamo un po' le distanze. Forse oggi, proprio aiutati dalle vostre telefonate, cercheremo di guardare quegli aculei in un altro modo, a metterci in un'altra posizione, perché magari di fianco ci pungono un po' di meno. Ci proviamo. Abbiamo tanti ascoltatori. Vi invito ad approfittare della presenza di Tata Lucia, che ho catturato per voi oggi, è proprio qua presente in studio. Riusciremo anche a farle una fotografia magari. 800 24 00 24. Abbiamo Mariella da Bari, Fabrizio da Vicenza, Rita da Roma e il nostro centralino è a vostra disposizione. Andiamo da Mariella. Buongiorno Mariella, benvenuta. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Un saluto a tutti i vostri esperti, i suoi esperti. Così. Niente, sono una nonna di 60 anni con una nipotina che a gennaio ha fatto 5 anni, sta frequentando la prima elementare. Bambina che non ha problemi, socializza, tutto questo. Però stiamo notando che se deve imparare le letterine, se deve imparare una filastrocca, praticamente è un po' così, la memoria le fa difetto. E niente, vorremmo sapere se c'è un metodo, se c'è qualcosa o un motivo... Ecco l'aculeo di Mariella, sì. La filastrocca, imparare la bambina che non impara memoria. Io invito il dottor Ballerini ad aiutarci a vedere l'aculeo sotto un'altra prospettiva, perché tante volte noi vediamo, ci pungiamo con delle cose che in realtà non sono nate per pungerci, ma per farci riflettere. Dottor Ballerini. Mariella, mi permetta di dirlo, lasciamola tranquilla questa bambina, perché a 5 anni può avere diritto di non impararla. Quando sento dire deve imparare la filastrocca, è un qualcosa che abbiamo deciso noi grandi. I bambini, tra l'altro ci ha appena detto che questa bambina sta bene perché sta con tutti gli altri bambini, è una bambina normalissima. Allora, imparare una filastrocca la imparerà quando le farà piacere, quando troverà una filastrocca che la interessa e quando scoprirà che magari dicendola agli altri piace, le diranno che è brava. Non facciamola diventare un dovere. Tra l'altro è un'età delicata perché fra un po' andrà a scuola. Se iniziamo a far diventare tutto un dovere, una prestazione certo. che lei deve imparare perché poi deve farci vedere e dimostrare che è brava, sarà un po' nei guai. Quindi lasciamola tranquilla, guardi, la filastrocca la imparerà benissimo e fra un po' imparerà tantissime canzoni. E può raccontarle anche la storia dei porcospini. Fabrizio da Vicenza, buongiorno. Sì, Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Eccola. Allora, intanto complimenti alla Tata Lucia, la seguiamo con molta stima. Grazie, grazie. Allora, io sono padre di 35 anni, Pietro ha 9 mesi, un bambino stupendo, meraviglioso, che però purtroppo dorme poco. Quindi dopo 9 mesi la cosa comincia ad essere un po' pesante. Sì. Parlando di giochi di squadra, mi chiedevo se c'è un gioco di squadra che possa permettere a Pietro di dormire e quindi anche di conseguenza a noi. Allora, di giorno questo bambino Pietro va portato molto all'aria aperta. Possibilmente poi farlo stare sveglio di giorno, cioè interessare 9 mesi, è già un bambino che gioca, che canta, che ride, che si manifesta nei giochi, metterlo a letto presto con un rito sempre uguale, magari col papà invece che con la mamma, se questo attaccamento con la mamma è quello che a cui ancora lui è molto legato. E nel fare gioco di squadra, certo, se Pietro non dorme, indietro, i genitori si alternano. Anche quello è fare squadra. Rita da Roma, buongiorno, e poi Marianna da Milano. Rita, benvenuta, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, lei ha i suoi ospiti. Io sono una mamma di 55 anni con 2 ragazzi, uno di 20 e uno di 17 e mezzo. Diciamo che il problema lo rappresenta l'adolescente di 17 anni e mezzo che ha cominciato un po' di tempo fa, cioè se ne siamo accorti qualche tempo fa, ma adesso sta diventando sempre più pressante il problema. Dice le bugie e ne dice tante. Non riesco io a relazionarmici, perché io lo a Roma si dice lotano, no? Lo sì. Scopro. Però lui mi aggredisce e chiaramente si difende, capisco che è naturale, ma non riesco a trovare il messaggio. Ecco, a trovare la chiave per sbloccare questa situazione che sicuramente avvelena la relazione. La mamma è preoccupata perché nella bugia, dietro alla bugia, pensa ad tutto un mondo che il figlio vuole tenerle nascosto e nello stesso tempo cerca una relazione. Dottor Ballerini, qua adolescenza, momento di gli aculei ne spuntano doppi. Qua stiamo parlando di una storia che probabilmente non è una storia nuova. Certamente abbiamo 17 anni e mezzo di storia e non possiamo saperla in questo momento. Dobbiamo dire che le bugie spesso sono una forma di difesa, una forma di scappare via dalla realtà. Stiamo attenti su questi ragazzi perché ho incontrato alcuni ragazzi che poi diventano dei mentitori incalliti e poi uno diventa un mentitore professionista. Non si accorge. E la bugia diventa un sistema. Allora bisogna aiutare. Un consiglio pratico. Cosa significa? Dire alla ti ho scoperto, locano, dice la nostra ascoltatrice, come si reagisce come genitore? Il continuare a smentire un ragazzo non gli fa bene perché è umiliante per lui. Io proverei a porre un rapporto il più possibile sereno, provando a dargli fiducia su qualche cosa, perché a un ragazzo così nessuno dà più fiducia perché continua a dire bugie, quindi di te non mi posso fidare, trovare un punto su cui dargli fiducia e poi magari invitarlo a parlarne con qualcuno, perché ormai ha quasi 18 anni, esatto, è giusto che se ne occupi anche lui di se stesso. Marianna, proprio chiedere che problemi hai e vediamo come vuoi risolverli, quindi magari facendo riferimento a persone che possono indicargli una strada. Ci state scrivendo naturalmente anche su Facebook. Riccarda ci scrive che vorrebbe approfittare della presenza di Tata Lucia per chiederle come insegnare alla figlia ad organizzarsi, anche perché rimanda sempre tutto e arriva sempre all'ultimo momento. E so che Tata, anche nei suoi libri, tu insegni a fare, prenderti un compito alla volta e proprio passo poco dopo per passo. Volta piccole battaglie, ma piccolissime, nelle quali avere successo. Per esempio, la cartella si prepara la sera prima di vedere la televisione, prima di fare una cosa gradita. Allora, quindi un compito alla volta, uno alla volta. Al giorno per qualche giorno, quando è rinsaldato quello questa si arriva ad un altro. Si comincia con un'altra cosa. Era Marianna che ci aspettava da Roma, da Milano. Marianna, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Io sono una nonna, buongiorno. Tata Lucia io la seguo molto e a volte riesco a mettere in pratica qualche piccolo. Brava! Ok, allora il problema di oggi, la culeo qual è? Questo invece è molto ostico come problema. Perché un nipotino, io ho 2 nipotini, uno di 4 anni e mezzo e uno di 3, sono 2 fratelli. Sì. Quello di 3 anni, che è molto sveglio, ha un carattere molto forte, non riusciamo a imporgli, cioè imporgli, a fargli fare le cose come deve. Cioè, lui vuole ma tre anni, pover piccinini, e poi lasciate... è secondo, tata. Ma aspetti, tata, un attimo. È che lui, non so, se decide di non mettersi le scarpe, non le mette, ma neanche... E poi diventa violento se uno glielo impone. Ecco, allora non mette le scarpe, non esce. Fateglielo fare due volte. Vedete quando ci sono gli amici giù in giardino a giocare, vedete che la terza volta se le mette. Sì, direi che poi l'adulto deve, non deve mai fare testa a testa con un bambino. Non è un muro su cui sbatterci la testa. Quello che abbiamo appena sentito è un modo per girare intorno al muro. Se con un bambino di 3 anni gli permettiamo di iniziare a fare così con noi, quindi fare una continua opposizione, poi continuerà. Dobbiamo trovare cambiare. Sì. Cambiare strada, non giocare a questo gioco. E poi posso dire, tata, che poi noi pensiamo che quando il nostro bambino ha un problema, che lui rimanga sempre così. In realtà poi noi cambiamo e cambiano anche loro. Le cose passano. Crescono, io lo so che mi può sembrare un consiglio dato all'acqua di rosa, ma è così. No, ma è così. Oggi ce l'hanno con le scarpe, non vogliono mettere le scarpe. Poi, no, venendo grande, la saggezza ci dice, poi quando avranno la fidanzata le scarpe sì che vogliono metterle, tanto tempo per dire che poi giorno dopo giorno ci sono dei piccoli impercettibili cambiamenti, e questo ci deve anche portare ad avere un atteggiamento più sereno, su quei problemi che noi consideriamo giustamente con attenzione e seri. Breaking news. Poco fa l'annuncio del Nobel per la fisica, che quest'anno è andato a pari merito a Serge Haroche e David Wineland, quindi nulla di fatto per gli italiani in lista. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, dopo questa breaking news abbiamo Roberto che entra da Milano. Buongiorno Roberto. Buongiorno Eccola. A tutti, buongiorno. E grazie per avermi richiamato. Tata Lucia la segue, i suoi libri li abbiamo sul comodino. Allora, tutti quelli che seguono Tata Lucia chiamino l'800 24 00 24, facciamo un sondaggio veloce, che così Roberto. Ma non sempre riusciamo a mettere in pratica i suoi consigli. Siamo dei genitori un po' maturi, ho 50 anni, mia moglie qualche anno meno, abbiamo avuto il nostro primo bimbo 3 anni fa e siamo alle prese con l'asilo. Roberto, venga al punto, perché... Un comportamento all'asilo che non ha a casa. Che fa? Non vuole mangiare, versa la roba nei piatti degli altri, scalcia, cose manifesta, che non ha mai fatto. Manifesta così il suo dissenso. Esatto, certo. Per andare all'asilo. Cosa si dice a questo piccoletto? L'asilo, niente, lo si lascia tranquillo. All'asilo ci saranno modalità per cui a un certo punto capirà che non deve fare queste cose, perché questo è la seconda fase della socializzazione. Passa dalla società famiglia, dove probabilmente tutti lo servono come un dio, per cui se rovescia l'acqua nel piatto qualcuno gli cambia il piatto, lo imbocca, eccetera. Invece lì deve responsabilizzarsi, imparerà. Quindi tranquillità. Impara anche lui, è una bella palestra. Prima di salutarvi, un appuntamento da segnare in agenda. Voi potete continuare a chiamarci all'800 24 00 24, la tata rimane con noi. Vorrei segnalarvi un'iniziativa che ci invita proprio a fare squadre insieme a medici nutrizionisti per trovare soluzioni al sovrappeso e all'obesità, che stanno ormai raggiungendo dimensioni preoccupanti. Le statistiche, pensate, parlano di 44 italiani su 100 che risultano essere in sovrappeso ed 1 su 10 risulta essere obeso. Domani 10 ottobre torna l'Obesity Day, una giornata proprio per sensibilizzare a questo problema, e gli esperti dei centri ADI, che è l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, si metteranno a disposizione gratuitamente in molti ospedali in tutta Italia per dare consigli a chi combatte la battaglia con i chili di troppo. Trovate l'elenco e gli indirizzi dei centri sul sito www.obesityday.org. non ditemi perché usiamo i termini in inglese, si chiama così, obesityday.org, non dipende da me. Sul sito nostro invece un'intervista al professor Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione ADI e responsabile del progetto. E se volete anche voi essere accompagnati in un cambiamento del vostro stile alimentare, vi ricordo che anche qua a Essere Benessere potete trovare una mano. Fate squadra partecipando al nostro reality radiofonico per imparare bene a mangiare bene, per stare meglio. E noi abbiamo a disposizione, come sapete, una squadra di esperti e in linea ne abbiamo uno, il nostro grande esperto, il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Imparare a mangiare e fare squadra, perché noi vogliamo entrare anche nelle famiglie, dottor Ongaro. Beh, penso che sia sì, una caratteristica importante di quello che stiamo cercando di fare. In fondo, se ci pensiamo, il mangiare è una cosa che ci riguarda tutti, che ci accomuna ed è anche una delle azioni con il maggior grado di coinvolgimento sociale per la maggior parte di noi, e quindi credo che veramente una nuova cultura alimentare non possa isolare il soggetto che vuole cambiare stile alimentare, ma anzi debba diventare da quel soggetto, debba in qualche modo espandersi e coinvolgere la famiglia intera quando possibile. Io vedo che tra l'altro anche con i miei pazienti, quando si affronta così il cambiamento alimentare risulta molto più semplice e più divertente per tutti. E quindi se volete partecipare a Mangia con me, compilate il questionario che c'è sul nostro sito e poi mettetevi in gioco a fare squadra, magari diventate anche voi, no? un motore. Metteteli a tavola fino da piccoli. Vero? Bisogna certo. Dire anche ai bambini mangiate con noi. Certo, esatto. Dottor Ongaro, noi ci sentiamo giovedì. Grazie mille, ci riprendiamo giovedì con nuovi interessanti casi, nuove avventure ci attendono, coinvolgeremo magari anche Tata Lucia per un giorno, magari con dei bambini che non vogliono stare certo. A tavola. Grazie a Tata Lucia, al dottor Ballerini, a voi che ci siete venuti a trovare all'800 24 00 24. A domani.